mezzo sorriso, come una lama sul viso. Mi resta solo il tuo vestito ed una mezza bottiglia nel frigo, e mi ricorderai solo l'ultima sera a gridarci in faccia che bastava così. E mi ritroverai mentre ti portano a cena e rivederti fa male. Eri tu, eri tu, eri tu la mia passione. Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore? Un'ossessione. E l'ultima canzone, la più bella del rione. Eri tu la mia passione. Chissà perché ti ho tradita, mi dispiace, ero fuori di me. Cosa resta di un amore? Il tuo dolore. Nel silenzio muore un fiore, la più bella del rione. Se stiamo insieme ti giuro che io non la guardo mai l'ora sul rally. Vorrei scriverti ancora ti amo prima che l'aereo decolli. E anche se faccio finta che non mi interessa, sei come un proiettile che mi passa per la testa. Sapevo che saresti stata tu il mio karma. A Ibiza sulla barca siamo rimasti tutto il giorno in stanza. Con le altre non sento la stessa fiamma. Tequila sulla spiaggia, il sole che si affaccia. Eri tu la mia passione. Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore? Un'ossessione. E l'ultima canzone, la più bella del rione. Eri tu la mia passione. Chissà perché ti ho tradita, mi dispiace, ero fuori di me. Cosa resta di un amore? Il tuo dolore. Nel silenzio muore un fiore, la più bella del rione. Ti hanno vista piangere per me in discoteca mentre ti nascondevi. Io ci provo a dirtelo anche se non ci credi. Eri tu la mia passione, la più bella. Eri tu, eri tu, eri tu la mia passione. Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore? Un'ossessione.